poc'anzi il gufo, devono essere una quarantina di persone, perché tutto quello che è elencato se lo mangerebbero 40 persone, non due bassoni o tre cantosoletti in casa sua. Ah, oh gufo, ma è mai possibile, capi, da che tu prepari tutta questa cosa? Perché non lo pensavo in tempo di guerra, mi? E rimuovi da quello frigo. Ha fatto quella cosa, poi si vedrà. Ma penso non quattro mesi, all'altro metà, ma adesso vediamo, vai, vai. L'altro mese intorno al 20, no, il 20 no, il 22 era di sabato, proprio l'altro mese. Inizialmente mi aveva chiesto, prima 147, poi è sceso a 137, ma 10 di trasporto e me la porto direttamente a casa. Lo indirizzo in botte, lo indirizzo, dunque lì non ci sono problemi. E risparmio 20 giorni ce l'ho con me. E quindi risparmio una trentina di euro, o quasi. Perciò no. Allora, io non ho la soddisfazione di non fa niente, no? Perché non è possibile. Questo qui significa, secondo me, essere ladri, no? Non è possibile. Io dico pane a pane, vino a vino, no? Non c'è da fare. Per me un commerciante che si comporta in quel modo, per me sono un usuraio, un ladro, e basta. Dunque, sarò cattivo, sarò quello che vuoi, ma io la penso così. E non ho anche detto di persona, perciò non sto niente, dicendo niente di particolare. Capito? Riprendi. Io che di un uomo io sono per non fare tirando e mollando, hai capito? Non sono il tipo, però come stai dicendo tu hai ragione, perché diciamo se lo stesso prodotto a me me lo danno 30 euro in meno, io certamente, però anche io era la fretta, poi mi stava dicendo Marcalino che non ce n'erano più in giro, qui per notare su internet cercando, ecco, andiamo ma ci pagano del 20 euro, però come se non fa comprarci nulla, non fa comprare nulla lì. E infatti non fa proprio, no, assolutamente. va bene, pazienza, vediamo un po' se è rientrato Mario. Mario, sei rientrato? Adesso lo anche ascoltando, sono andato a cambiare l'acqua al cardellino. Beh, anche quello bisogna fare, Mario. Almeno un paio di volte tutte le mattine. va bene, meglio così. Vediamo un po' se Gianni, puoi riprendere? Un attimo, QRT per me, buon pranzo a tutti, dai, che se no io che, ma mi pigli di, che devo preparare di finire. Papà, ciao Gufo, buona carica, buon tutto e buon preparativo, dai, e buon proseguimento di serata, ce la risentiamo alle prossime, vai. Salutiamo Gufo, ciao Gufo, salutoni alle lentici, vai noi Gianni di Amuros per salutare Gufo. Ok, ciao Graziano, ti saluto, buon tutto, buona carica e diciamo, innaffiate bene quelle pietre calde tutte che sicuramente meritano. E ripeto il tutto a Luca, c'è anche Luca, ogni tanto mi sfuggono, scusa lì, Luca, sono un imbambito io. Ti rimetto il cambio Luca, vai. Quando lo prendo, lo prendo io allora, faccio girare per Gianni. Gianni? Ehi, Ali, adesso se n'è andato Giuseppe. Si è fermato uno, lo prendo con Giuseppe, se volevo pesce fresco, che se no ancora non arrivo. Aveva di tutto, sale, ghiorate, gronghi, di tutto. Ho capito, uno di solito si mette qui nella zona dei punti, solleva il portellone della macchina e si mette la cassettina fuori, scrive con un cartello pesci, e diciamo che di tanto in tanto si trova anche qua quel tipo lì. E devo dire, per essere un pescatore così che va a prendere e poi si riprende per conto proprio, anche se qualche volta l'hanno anche fatto osservazione i vigili che non lo può fare, pazienza, non lasciamo più per insomma poche parole, è così, e vabbè, riprende Mario. Ciappa gappa, il discorso di Pocatti è giusto, né, quello che dicevi tu Giulio, è come che io vado alla tua bottega e tu mi spari una cifra esagerata, poi giustamente c'è chi più e c'è chi meno, c'è chi lavora con un certo criterio, c'è chi ti dà materiali buoni, c'è chi ti dà materiali scadenti e poi il prezzo gira girasi più male. come tu hai già accennato, è diverso. Perché? Perché io posso fare un lavoro di un'altra qualità diversa, posso impiegare dei materiali diversi, eccetera, eccetera. Ma non c'è, la manto, ma è quella sia da lui che in continente. E lui da là, quando la cosa originale è quella e basta. E come appunto hai detto tu, non è possibile che si possa vendere una cosa con un costo così molto, ma molto più alto. Non è possibile, io posso capire, finché si tratta solo 5-10 euro, uno può anche passarci sopra, ma si dai, anziché aspettare 3 giorni, ce l'ho subito, al momento, la compro e via. Ma quando comincia a essere una certa cifra, se permetti, anche i 3 giorni sono sopportabili, i 3 giorni che si impiegano per mandartela sono sopportabilissimi, e allora uno aspetta, i soldi non è che scendono quelli dall'aria, hanno dal cielo, e allora a questo punto qua, lui fa i propri interessi e lascia perdere, se la compra dopo gli conviene di più, è così, riprendi ancora male e poi fai girare, vai. Capita di positivo, così è, purtroppo è, ma per me quella gente lì dovrebbe arrivare a chiudere questa grande e non riuscire più ad aprire nessun tipo di negozio, perché non puoi, diciamo così, fare tutti quanti questi imbrogli che fanno loro, capito? Yeah. sono qui, lei è padrona qui della casa e di tutto ciò che si deve svolgere, io sono padrone della, di quello che si deve svolgere in famiglia mia. Di conseguenza ha ognuno il suo compito e svolto in buona volontà sia da parte mia che da parte sua. Poi naturalmente ci sono i figli che anche loro collaborano, come vedo la figlia, io ne ho solo una, e anche loro diciamo che in parte si collabora, e allora tutto procede per il meglio e speriamo che vada avanti sempre così, nella maniera migliore. Avanti ancora Mario. Niente, è così, Giulio, c'è poco da scegliere, perché sì, è bello che anche la donna abbia il suo lavoro, abbia la sua indipendenza, però poi stiamo vedendo come crescono i figli di certi personaggi quando lavorano moglie e marito, che i figli sono un pochettino allo sbando, perché non li cura nessuno e praticamente non li controlla nessuno. Casomai ha fatto più ascolto che modulazione, ma io o ritengo che Bruno Puglia si fa risentire, perché così, perché so che è appassionato, è tranquillo, le apparecchiature ce le ha, le antenne ce l'ha, dunque non ha problemi di nessun genere. E vabbè, è così Mario, non lo so, evidentemente è stanco. Del resto succede un po' a tutti, no? Magari di stare un po' di tempo senza farsi sentire, poi può riprendere magari più in forma di prima e alla grande più di prima. Ma se farà risentire, anzi se si è all'ascolto io faccio appello perché tu possa farsi risentire, o Punzio. Allora, casomai, fatti venire la voce, se non hai voglia di parlare fatela venire. Bene, sono andato Mario. Beluscio alla grande, K, così è. No, perché noi, diciamo così, di persona è difficile che ci troviamo in verticale, perché tu c'hai il tuo lavoro, io c'ho il mio, quell'altro c'ha il suo, e giustamente magari è un po' difficile che ci troviamo. Poi ci sono le occasioni che ci siamo trovati anche in verticale, però si è costruito una bella graticola, un bel braciere, sai, a bene attrezzato, e tu dogna lì a Lucendi, beh, a te lui. anche noi mangiamo comunque. Ma voglio dire, lui è sempre in casa sua, è sempre in botta evidentemente, ma forse io ho pensato che lui ha passione per la cucina e fa bene se è così a dare anche una mano alla moglie, indubbiamente, perché, ripeto, in famiglia si deve collaborare sempre. Se uno è capace, meglio che faccia, e se non può voglia fare lo che mi cucina la bella da capo mia moglie, perché io non so cucinare, di conseguenza lei mi sono fastidio Mario. Ma tu evidentemente è capace, allora dà una mano anche ai fornelli, capito? Il movimento di tutte le maniere va bene per tenere sempre il fisico in perfetta forma. Giulio era scoppettata, tu lo stesso. lui era un po', ha cominciato un po' la butti verso il semaforo, diciamo il semaforo proprio dell'Arte Dolce, lì arrivarmi in Santiago quasi 9, non era 9. Capo, no, io qui da casa l'ho ascoltato Santiago 9, Luca lo sentiva 9-10, Dollaro lo stesso lo sentiva quasi 7-8 mi sembra, una cosa del genere, però diciamo che la radio era buona, dai, rispetto a prima. Può darsi che sia una zona negativa, perché io a voi vi ascoltavo bene anche di segnale, a lui invece era un po' contraria la storia, vabbè, magari anche la zona che non è favorevole per lui, dai. Ma vediamo un po'. E quanto l'ha alzato il palo, lui l'ha già detto. No, non mi ha detto niente, però deve essere, diciamo, quasi a filo di tetto, perché mi stava dicendo che dopo che l'ha ventilata è salito sul tetto, ha piazzato i radiali, se ne vede che sarà a 1,5 metri dal tetto. Gappa. Andava. Va bene così. Comunque lui ha dilatato un po' l'antenna, se non gli fate quasi torna tutto canto, come ha fatto con l'altro. Ma secondo me lui doveva mettere due tubi, uno scappato bene al muro, come Dio comanda, portarlo a 1 metro fuori dal tetto, quello di sotto, e sarebbe stato un tubo da un pollice e un quarto, grosso modo. Poi sopra doveva pigliarsi un altro tubo che tutto infilato doveva uscire intanto dai metà dell'antenna. Poi una volta inettata l'antenna, lo facevo praticamente come il telescopico, sollevava il tubo e gli metteva il bullone passante, più o meno come ha fatto Natalino. Beh, certo che è così. Ma lui non ha voluto né mano né niente, noi gli abbiamo detto che erano disponibili ad andare a aiutarlo, non ci ha chiamato, non ci ha detto niente, probabilmente non vuole se cazzuri, allora vabbè, ha fatto bene che ce l'ha fatto lui. Va bene che si faccia sentire, perché è una persona in gamba. Ci temevo che magari mi chiamasse e mi avrei dato una mano. Io gli ho detto che ero disponibile, non mi ha chiesto nulla lui. Ti avevo detto sia io che Pierpaolo che Antonio, saremmo andati a dargli una mano. Calcolato di metterlo un metro fuori. Io gli ho detto, devi calcolare il tanto dentro quello che va dentro, come sta dicendo. E da lì, da fuori, ne deve uscire almeno 5 metri, lui ne aveva 4 metri e qualche cosa, no, 5 metri e qualche cosa. Doveva, ma così metri, poi 1,5 metri circa entrava dentro la soffitta. Tu immagina che cosa ne avevi sicura di tutto. Ma lui ha deciso di fare così, di fare tutto in fretta e furia, è da solo, e niente. Poi dice che per fortuna gli ha dato il figlio a dargli una mano, anche se no magari gliela pulisce un piatto. E poi salire sul tetto lì è un bel grosso, salire sul tetto mi ha fatto due, ci voleva una persona leggera. Saliva Antonio 5 minuti e l'avrebbe fatto tutto bene, tranquillo. Oh Antonio, Natalino. Ma state tutta, fate tutto di lavrea. Vabbè, perché è una persona particolare, ha paura di disturbare, io lo so che fa solo così, però se l'abbiamo detto noi mica ce l'ha chiesto lui. Vabbè, è andata così, dai, non c'è problema. No, problema non ce n'è, solo che ha fatto una fatica da leone quando poteva fare la fatica di una pecorella. È stata di positivo. Stata di positivo, ma purtroppo ci sono anche questi elementi che non è che siano, però sono timidi, sono quelli che sembra che quando stanno chiedendo una cortesia gli se ne domandano il mondo. Ci sono anche le persone incontrate che sono come faccia apposta. E sia l'uno che l'altro, ci deve essere sempre la via di mezzo, perché sia l'uno che l'altro non va bene. Non la via di mezzo. Se ti offro una cosa, accettala. Siamo tutte persone che hanno la loro esperienza, queste cose, sanno come fare, ognuno ci mette la sua di esperienza, unite e poi formano un'antenna. È di positivo. No, io qui quando ho piazzato la mia era venuto mio cugino, c'era Pomponio, io, c'era anche qualche altro amico. Grosso è stata a portare sul palo perché l'abbiamo portato dalla zona delle scale, siccome aprivamo le finestre e facevamo una specie di passamano, capito? Si deve arrivare sul tetto. Poi una volta arrivata sul tetto l'abbiamo sdraiata sul tetto il palo, abbiamo infilato l'antenna, abbiamo controllato stazionaria e tutto quanto, che non ci fosse nulla, tranquillo, dopodiché pigliato, dato uno schiaffo al palo, si è solita l'antenna. Non è che era così complicato, però perché c'hai anche lo spazio per potersi muovere. Ma l'ho cambiato nella immagine, l'ho messo lo stesso. Lo stesso ho lasciato. Buono era in condizione. Sì. Il palo origina non li ha manco. Interessante che siano resistenti ancora, le quasi un po' di pittura di quella antirugine. No, che Pomponio mi stava dicendo che abbassando la pittura antirugine dice che gli fa, come si chiama, si isola e non fa più massa. Ma quella è cortocircuitata, quindi non ha bisogno di massa di niente. È in campo di positivo, poi lui mi dice che il palo non si ammassa. Vabbè. Ma comunque, già va bene Mario. Io sono arrivato a Olbia, da Domenico, mi ha sentito a Olbia. No, è la casa tua? Eia. Io stavo parlando con voi e lui mi ha detto che sentiva solo a me, gli altri non li sentiva, da Urbia mi sentiva a me ma non sentiva gli altri. Non è che sto parlando con lui, no, io stavo parlando con voi. Specialmente per il mare, specialmente per il mare la mia è ok. Ah, ma allora ti saluto che vado a dare un colpo di mano, che abbiamo ospiti oggi, vado a dare un colpo di mano, se no sembra che mi voglia isolare. Ci sentiamo, magari dopo pranzo, quando siamo con lo stomaco pieno, va. D'accordo, dai, buona carica. Ciao, ciao, ci sentiamo. Adesso la parola bene. No, va bene, va.